AVS Media Demo. Giorni nati apposta per pensare in allegria. Vecchi desideri. AVS Media Demo. Danno fantasia. Nuove sensazioni, sempre troppa gelosia. Per trovarti dentro tanto so che resti mia. Momenti vissuti. AVS Media Demo. Frasi senza senso dedicate a noi. Persi dentro un'altra stazione. Baci intensi sotto un portone. Lunga questa attesa non passa mai. AVS Media Demo. Frasi ambigue a volte spezzate da eterni silenzi fra di noi. Giorni sempre uguali, ora che sei andata via. Non c'è neanche spazio per un po' di gelosia. AVS Media Demo. Soliti pensieri, non c'è troppa fantasia. Ti ritrovo dentro tanto, so che non sei mia. Ricordi soffusi. AVS Media Demo. Su quelle frasi tra noi due. Sono solo sotto il portone. Solo viaggi nella stazione. Non sto ad aspettarti, non tornerai. Guardo gli altri sempre. AVS Media Demo. Pioggia che batte. Vecchi desideri sono miei. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Sono solo sotto il portone. Solo viaggi nella stazione. Non sto ad aspettarti, non tornerai. Guardo gli altri sempre distratti sotto questa. AVS Media Demo. E chi desideri solo miei. Giorni nati apposta per pensare in allegria. Vecchi desideri che ridanno fantasia. Nel cielo. AVS Media Demo. Sei di periferia. Sono ancora solo ora che sei andata via. Mi fermo un momento. Guardo un alto in cielo, chissà cosa. AVS Media Demo. Ricordiamo un'altra emozione. Recitiamo un altro spezzone della nostra vita solo.